Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Questa è la giornata meno adatta, almeno per me, per parlare dell'argomento di cui vorremmo parlare questa mattina. Che è l'uomo ideale? Quale è il modello di uomo ideale mediamente espresso alle donne che ambiscono ad avere un uomo di vicino, che naturalmente ne ha uno e è completamente soddisfatta, appagata, non ha bisogno di esprimersi questa mattina. Chi vicino ne ha uno non è poi così completamente soddisfatta e appagata, è un uomo onirico che accarezza nei suoi sogni, nel suo immaginario, nel suo tormento quotidiano, nel suo primaverile prurito carnale che viene suscitato dalla tenerezza del clima, dalla primavera incipiente, d'aprile che inizia oggi il più crudele dei mesi e quindi sapete esattamente questa crudeltà come si ripercuote nelle zone più sensibili della nostra anima, beh, questa mattina può esprimersi. Perché dico che per me è la giornata meno adatta? Perché sono già due volte, oggi è accaduto per la seconda volta in una settimana, che qualcuno in metropolitana si alza per cedermi il posto. Quindi questa mattina mi sento automaticamente espulso da ogni classifica, anche ospiziale, dell'uomo ideale. Quindi con la leggerezza dell'anacoreta, con la spietatezza di colui che ormai è già in un'altra dimensione, istigo questa mattina le femmine in ascolto ad esprimersi tranquillamente, serenamente, sull'incipiente e crudelissimo aprile che disossa ogni sentimento e ogni volontà ed ogni voluttà, ad esprimersi quale sia il modello di uomo ideale, perché su questo qualcuno si è interrogato. Il numero dell'agenzia ce l'hanno? Dovrei, ma non è che c'è un biglietto da visita? Eccolo qua, sì, eccolo qua, c'è il cellulare. Però a volte lo spengo e lascio anche il numero di casa, non si sa mai. Comunque sono anche sull'elenco, eh? Via Po 7. C'è un'altra sacchetta in centro, però si chiama Fiorenza, non sono io. L'altra non mi interessa. Questo è il mio. Ah, dentista. Dentista. Con un sorriso così non poteva che essere un professionista. L'altra non mi interessa. Questa è una tipologia abbastanza scontata, conosciuta. Ognuno ha donne simili nel suo carnet di amicizie, di frequentazioni, di conoscenze. In questo caso è Claudia Gerini, un agente immobiliare, una trentenne, una bella donna, inspiegabilmente, secondo una logica assolutamente deleteria di questi tempi, sola e in cerca di uomo ideale. Questo è un momento del suo cammino di ricerca sentimentale in cui incontra un suo cliente, un affascinante dentista, con questa nota additiva dell'accento francese che lo rende ancora più affascinante, che lei incontra in un incontro di lavoro, lui vendeva un suo casolare. E vedete come da piccoli segnali si capisce quanto sia spasmodica la ricerca di questo settore intermedio della mascolinità, che non è l'uomo rude, l'uomo aggressivo, non è nemmeno quel fantastico esempio che ormai è una reliquia di intellettuale organico, di personaggio chiacchierone, di fumoso affabulatore. È qualcosa di mezzo, è un signore piacevole, un signore professionalmente realizzato, però solo, libero come una libellula, appetibile. Quindi la Gerini, con il pretesto del rapporto professionale, comincia a cedere qualche elemento in più, il telefono personale, privato. Infatti con lui aprirà una storia. 800 24 0024, non deludetemi questa mattina, ma fatemi capire, perché sono curioso ormai, essendo fuori dalla lizza, fuori dalla lista delle appetibilità, essendo ormai un anziano signore a cui si cede il posto in metropolitana, sono curioso per avere quest'ultimo barlume, quest'ultimo sprazzo di conoscenza del mondo femminile. Dico questo perché ho letto uno dei tanti sondaggi che si fanno sull'inizio della primavera riguardo a questi argomenti. In particolare ce n'è uno proprio destinato a l'uomo dei sogni fatto dalla metacomunicazione, poi sentiremo qualche responsabile di questo sondaggio, hanno coinvolto un campione di 2700 utenti donne fra i 25 e i 55 anni, quindi un campione fantastico di donne. Dall'uscita, diciamo, dell'età scolare, quindi dalla laurea avanzata, e già si pensa dall'aver lambito, seppur in maniera sporadica, al mondo del lavoro, fino ai 55 anni, la favolosa età in cui una donna è disposta a tutto, abbandona ogni ritegno, abbandona ogni reticenza, è sull'orlo, è al soglio di quella che viene considerata l'età dei sensi placati, ma in realtà tutti sappiamo che non è così. E quindi è il momento in cui una donna fa fuoco e fiamme. Cosa è emerso da questo sondaggio? È emerso quello che più o meno io cercavo di esprimere attraverso un'intuizione, che ci sia un po' rotte le scatole dei modelli più estremizzati, dei due poli della mascolinità, dell'uomo tatuato, muscolato, oliato, aggressivo, con quella sorta di aria di rudezza ottenuta attraverso una cosmesi. Sono le finte barbe incolte, la finta trascuratezza del capello, insomma il tronista, l'uomo già eternizzato comunque da alcuni modelli televisivi, che ha fatto il suo tempo, è più diventato un'icona gay che un vero e reale concreto elemento di appetibilità femminile. E l'altro polo è l'uomo chiacchierone, è l'intellettuale, è l'opinionista televisivo impegnato, è colui che sembra trascurare ogni attenzione, sembra lontano da ogni desiderio, da ogni concupiscenza, e per questo, perlomeno in alcune fasi, le donne potevano illudere se stesse dicendo ma di questo uomo voglio prendermi il cervello, mi interessa la tua testa, quando in realtà sono andate a vedere che alla fine con la testa e col cervello ci fanno ben poco, non è che uno se la spalma addosso, non è che dà intime soddisfazioni. 800 24 0024, il vostro uomo ideale. Trovamene uno che sia interessante. Il cazzo se guarda. E poi pensano tutti a una cosa sola. Sì, forza. Pancia, panza, ma sta tortiglia arriva? Quegli uomini sembrano avere paura di me. È come se avessi un alone di... Hai provato con il deodorante? Dai, davvero. Infatti, fondamentalmente sono degli egoisti. Hanno più culo che anima. Lorenzo non c'è esso stasera, ma che c'ha? Boh, si vede che pensano ancora a quell'imbecille col cane. Ma chi? Ma quello che l'ha lasciata così, a Natale, senza una ragione? Ma c'era, che c'entrava con lui, come mi dai un ascensore? Altro che rapporto profondo. Oh, ma... Che palle. Se almeno ogni tanto insieme al menù si cambiasse argomento. Leggo qualche sms che mi stanno mandando, non avendo ancora fatto tempo a aprire la videata di Facebook, dove già troverò immediatamente delle risposte alle mie domande. Mi scrive, immagino, una signora: l'uomo ideale delle donne di solito è già fidanzato, ma con un altro uomo, e ride. Ah no, è Teo, è un uomo. È la solita invidia dei maschi per i maschi di successo. Beh, ho detto che è stato fatto un'inchiesta, un sondaggio sui social network per richiedere a un campione femminile che immagino più evoluto nel avere intrepidezza e spudoratezza nell'esprimere i propri desiderata. Sono le donne che si incontrano, si offrono in senso iconografico naturalmente, perlomeno amano intrecciare a volte anche sinuosi ed allusivi rapporti epistolari sui social network. Abbiamo al telefono il responsabile di metacomunicazione, Saro Trovato. Saro, buongiorno. Buongiorno a te, Gianluca. Ma poi noi ci conosciamo da tanti anni, adesso lo allucino in questo momento. Perfetto, ne hai fatta di strada. Allora cominciamo a capire a che campione ti sei riferito. Allora, intanto non parliamo di un campione, che sarebbe non idoneo, non giusto parlare di ciò. Noi abbiamo semplicemente indagato su internet e quindi nelle principali community come le donne esprimono e cosa le donne richiedono in ambito di richiesta da parte dell'altro sesso. Emergeva di fatto, praticamente anche da altre indagini che noi abbiamo fatto ultimamente, un'esigenza di avere un uomo accanto, un'esigenza di un uomo che sta sparendo e che le donne richiedono sempre più con forza avere vicino loro. Che questo, diciamo, è un segno dei nostri tempi. Una volta non si potevano il problema dell'uomo che stava scomparendo, ma in realtà dovevano simulare o artefare una sorta di loro ritrosia, perché ce n'erano anche troppi uomini che le cercavano. Oggi è esattamente il contrario: gli uomini sono nascosti, sono timidi o sembrano occupati ad altre cose, le donne giustamente mostrano maggiore intraprendenza. Come hai in qualche maniera evidenziato questo modello intermedio, se non ho capito male la vostra analisi di maschio? Difatti praticamente il maschio è profondamente cambiato, come è cambiato il ruolo della donna. Negli ultimi anni, soprattutto noi parliamo della donna dei tens, ossia la donna degli anni 10, come la vogliamo definire, ovvero siamo negli anni del 2010-2020. Ma hai fatto bene a ricordarlo, perché sai, questi anni 10 ancora non ci eravamo accorti che li stavamo vivendo. Ci siamo fermati ai mitici anni 80, poi gli anni 90... ancora non hanno avuto una loro definizione. Gli anni 10, li stiamo vivendo, ma non sappiamo capire quale sia la cifra esatta di questi anni. Quindi hai già dato un segnale: la donna degli anni 10. La donna degli anni 10 è una donna consapevole, come la definiamo noi. Nel senso, è una donna che ormai non ha bisogno di dover concorrere a tutti i costi con l'uomo, malgrado le quote rosa, malgrado le esigenze che ci sono, malgrado il fatto di avere ancora una riconoscibilità. Parliamo sempre tendenzialmente, quindi non è mai un dato di fatto, ma dove si andrà e cosa si sta percependo. E il fatto è una donna che è profondamente cambiata rispetto alla donna degli anni 80, come dicevi tu. Dal carrierismo della donna, oggi la donna via via attraverso gli anni 90, i primi anni del 2000, sta ritornando a ritrovare e ricercare di nuovo il proprio senso di donna, e durante questo passaggio si è persa l'uomo. Ecco perché oggi l'uomo appare insicuro. Cioè, scusa Saro, se ho capito bene, oggi la donna avrebbe tempo finalmente per godersi un po' la vita, perché vuole tempo, non avrebbe tempo, vuole tempo, perché la donna ormai è alla ricerca del tempo per se stessa e per essere donna. Sì, ma quando ha passato, diciamo, gran parte di questo tempo nel farsi bella, nel creare la propria autonomia, nell'avere mezzi sostentamento, cioè, beh, adesso siamo pronte, si guarda intorno e trova il deserto. Certo. È proprio come dici te, infatti l'uomo di fatti si è perso, ha cambiato nella commissione dei ruoli, l'uomo si è sempre più femminilizzato, diciamo così, e quindi è molto più egocentrico, molto più portato alla bellezza per se stesso, molto più portato alla ricerca della cura del corpo per se stesso, e di fatti si è persa, e ha trovato anche una donna che non era più disposta praticamente a dover accettare tutte le insicurezze che lo caratterizzano. Quindi Saro, per andare per punti e per dare a ogni punto, diciamo, una piccola pezza di appoggio, l'uomo a un certo punto ha cominciato a entrare anche lui in questa sorta di competizione, a curarsi, rispetto all'uomo degli anni 50 e 60, che era sufficiente che andasse da un buon barbiere e si mettesse una camicia pulita, poi in realtà quello che accadeva sotto era molto relativo, il rito della doccia, del bagno settimanale, era una prassi piuttosto consolidata nei nostri genitori, quindi ci rendiamo conto, ha cominciato a curarsi molto. Cura che ti cura, oggi l'uomo è diventato una sorta di usurpatore dei belletti, delle cipre, dei profumi, delle cremine delle femmine, quindi a un certo punto si è trovato non un maschio vicino, appetibile, bello, profumato, oliato e muscolato, ma una sorta di metafemmina antagonista con le quali si contende il rito della manicure. Sentiamo a questa. Questa palestra mi è già costata 400 euro, senza contare i massaggi e il corso di taekwondo. E tutti quelli che ho conosciuto hanno a casa la foto ricordo del Gay Pride. Tu da quant'è che non scopi? Paola, ma è possibile? Te, ultimamente non si può parlare d'altro, eh? No, non tergiversare, da quanto? Un anno e mezzo. Eh? Ma che sei sorda? Un anno e mezzo? Un anno e mezzo che non scopi! Corrado non ti ha mollato 3 mesi fa? E te l'avevo detto che era un po' strano, no? Ah, lui? Ma fa qualcosa, ma metti un annuncio, ma che ti devo dire sempre tutto io? Questo è un altro problema, sembra brutto dirlo, non richiederò certo alle ascoltatrici di esprimerlo in maniera così esplicita, ma ci sono dei tempi di attesa piuttosto lunghi, che amiche con le quali ha una certa confidenza, entra in contatto con situazioni che apparentemente non sembrerebbero così drammatiche, ma vi assicuro sono vieppiù drammatiche: coppie consolidate, fidanzamenti illuminati, matrimoni benedetti, compagni di avventura, di fuga, e poi il tempo libero, il tempo dedicato alla soddisfazione, alla concupiscenza, alla scoperta, alla corporea esplorazione, in realtà è occupato da chiacchiere, da discorsi, da lunghe dissertazioni sul senso della vita, ma in realtà poi la fondamentale operazione che dovrebbe accadere fra uomo e donna è molto rallentata. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono una giovane donna, intervengo perché ho il desiderio di... 25 anni, giovanissima. Sì, io penso che la donna abbia un problema, se si può chiamare così, perché l'uomo secondo me è capace di amare la donna per quella che è, mentre la donna ama e poi ad un certo punto improvvisamente è come se si svegliasse da... Ma perché usi la parola amore, Valentina? Non è proprio obbligatoria questa parola. Io sto parlando di passione, conoscenza, sì, desiderio. Sì, no, però volevo focalizzarmi sul punto che ad un certo punto la donna dall'altra parte... No, non vorrei che tu poi arrivassi alla conclusione che la donna, se non c'è amore, non c'è concessione. No, no, no, la mia conclusione era... La donna ad un certo punto vuole tanti uomini in un unico uomo e quindi si mette alla ricerca di questo uomo ideale. E non può avere tanti uomini in tanti uomini? Potrebbe avere tanti uomini in tanti uomini, oppure semplicemente, come a volte accade nell'uomo, amare l'uomo per quello che è, senza avere sempre il desiderio di doverlo cambiare e di idealizzare un qualcosa che forse magari deve prima guardare dentro di sé, ciò che... non va, o come mai non si capisce perché. Però Valentina, rispondi alla domanda iniziale, vorrei fare una trasmissione il meno fumosa possibile, al più concreta possibile. Oggi è il primo aprile, a parte la giornata del pesce d'aprile, che però già può essere un buon augurio. Se tu dovessi adesso descrivermi il tuo sogno di uomo, l'uomo che vorresti incontrare incondizionatamente, al di là delle storie che hai, che potresti avere, come lo vorresti? Cerca di descrivermelo. Come lo vorrei? Sì. Devo dire che questa domanda mi ha sempre posto in grande difficoltà, perché non ho, fin da piccola non ho mai avuto il desiderio del principe azzurro, non ho mai avuto un'idealizzazione dell'uomo. No, può essere anche un animale, una bestia puzzolente, però dimmi, un uomo, come lo pensi? Sicuramente il più pura, fra virgolette, o il più diretta possibile, il meno costruita o comunque molto rude o semplice, nel senso che si veste e si alza la mattina, si veste tranquillamente senza dover troppo occuparsi della sua persona, un pochino sì, va bene, una persona che sicuramente cerchi prima di tutto la sua individualità e la sua capacità di essere individuo per poi andare alla ricerca dell'altra persona, che può essere una donna, un uomo o altre persone, insomma. Ha anche una sua caratteristica fisica? No, la caratteristica fisica è una cosa che appunto mi ha sempre fatto molta difficoltà. Potrebbe, ecco, avere i capelli rossi, perché il rosso è un colore che mi ha sempre... Attualmente ho il fidanzato con i capelli rossi, ma mi sono resa conto che mi piacciono i ragazzi con i capelli Ti piace rossi. Il rosso malpelo? Sì. Sao trovato. Trovi qualche coincidenza con la tua analisi, con quello che dice l'ascoltatrice Valentina? La Valentina non fa altro che affermare ciò che emerge dalla ricerca, ossia quest'uomo praticamente che ritorna ad essere praticamente forte, individuo, quando dice individuo è forte, e si prende le proprie responsabilità e sappia essere normale, tranquillo, bello magari sì, ma soprattutto che si prenda le proprie responsabilità di uomo, che sia attento a lei, che dia delle coccole e che si prenda le responsabilità. Un po' il principe azzurro, se lo vogliamo definire. Si prende il peso delle donne una volta tanto sulle spalle, anche in maniera concreta, o no? Assolutamente sì, e questo è ciò che emerge soprattutto, il fatto che la donna ormai non ha più accanto a sé qualcuno che la possa aiutare nella vita di tutti i giorni e che sia un punto di riferimento. Rispetto a quello che dicevi prima tu, l'uomo negli anni 50, negli anni 60, con le sue contraddizioni, di fatto era un punto di riferimento, perché il doppio ruolo standard che caratterizzava la società occidentale e soprattutto la nostra società era tutto chiuso e tutto deciso, e quindi non c'era motivo di riflessione. Oggi questo è andato tutto in crisi e la donna non ha più accanto a sé qualcuno su cui appoggiarsi e magari condividere la vita tutti i giorni, che ti posso assicurare, e tu lo sai meglio di me, che è molto dura. Tra i due, diciamo, i due estremi che ormai fanno parte del passato, l'uno l'abbiamo delimitato nell'uomo ipercurato, iperfisicato, l'altro è un altro tipo di uomo che oggi sembra in decadenza, che è l'intellettuale, l'uomo che si sceglieva per il suo cervello, per la sua cultura, per la sua capacità di interpretare la realtà. Anche questo tipo di uomo lo vedi calare nei desideri e nelle rappresentazioni oniriche delle donne che hai osservato? Viene considerato troppo complicato, perché l'altra faccia della medaglia del discorso che dicevamo prima, quest'uomo troppo intellettuale, un uomo poi profondamente forse che appare alle donne ancora insicuro, perché è troppo distante dalle loro pretese giornaliere, dalle loro esigenze giornaliere. Sì, chiacchiere, poi alla fine stufa questo tipo di uomo. Sentiamo Nicola. Oh, chiama Nicola, che è un uomo, ma non sento ascoltatrici femminili. 800 24 00 24. Vi ricordo che aprile è il più crudele dei mesi, come dice appunto Elliot, genera l'illada terra morta, confondendo memoria e desiderio, risvegliando le radici sopite con la pioggia della primavera. A voi non risveglia nulla l'aprile crudele? Non avete questo immaginario maschile che vi tartassa, vi assatana, soprattutto in questo periodo? Se non l'avete, peggio per voi. Nicola. Ma io volevo dire che per avere un uomo ideale bisogna avere anche una femmina ideale, nel senso che io sono uno che ha la tua stessa età, sposato due volte, figli, e io mi sono trovato bene quando avevo a fianco una femmina, nel senso che ti realizzava come ma io anche sono stato bene quando avevo a fianco un cane, un animale da cortile. Questo non dice che vuol dire quello, no, il discorso anche è da questo. Solo naturalmente, per natura abbiamo bisogno di una femmina. Il problema della donna è che mette la D davanti, cioè prima viene la donna, quindi l'individuo nell'ambito della società, e poi mette la femmina, e questo secondo me castra noi uomini. Sì, però questo... scusami Nicola, ti do in parte senz'altro ragione, ma è il gioco di chi per primo abbassa le armi. Se noi continuiamo a dire ma voi siete troppo aggressive, troppo dedicate alla carriera, non vi curate, non siete femmine, noi continueranno a dirci ma voi chi siete, voi avete la puzza sotto al naso, voi cosa volete da noi? Capite che la femmina molte volte va anche trovata, va scoperta, va immaginata laddove non sempre così presente. Sai, è un gioco un po' difficile, la linea demarcazione fra la vera femmina e il vero maschio è un terreno di conquista reciproco. Ma sono d'accordo con te, però purtroppo fa parte del gioco e del ruolo. Io personalmente, una donna che mi mette davanti la D e mi dice io sono questo, sono quest'altro, penso a questo, penso a quest'altro, a me, scusando il termine, non mi tira, non mi dice niente, è un pezzo di carta e chi si è visto. Sì, una donna, tra le tante giustificazioni quando non tira, mi sembra plausibile questa, giusto? Stiamo parlando di uomo ideale, maschio ideale. Io questo sto dicendo. Per me una femmina, una donna che non è femmina, non è un essere che nell'ambito della società, nell'ambito della natura è disponibile come una per la riproduzione. Questo voglio dire. Perfetto. Molto beh, adesso guarda, la riproduzione è ancora un altro problema. Qua stiamo parlando di dare senso a questo crudelissimo aprile. 800 24 00 24. Spero che la telefonata a Nicola abbia suscitato desiderio di replica dalla parte delle ascoltatrici. A tra un istante. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 800 28 11 11. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Pronto, Lorenzo Sacchetti? Ti ricordi Gaetano, il professore di informatica? Sì, quello che sembra appena risvegliato dal coma. E niente, mi ha telefonato che vuole uscire. Lui dice che porta un amico, Filippo, mi sembra che si chiami, e quindi saremo in 4 se ci sei anche tu. Ero tentata. Certo, questo amico di Gaetano chi lo conosceva? Però alle volte hai visto mai. Qualcuno di voi vuole un'altra birra? Il posto era tristissimo. No, Gaetano, poveretto, faceva anche tenerezza. Avete letto la nuova circolare sugli insegnanti di sostegno? Praticamente annulla la 285. Ma va? Interessante. Anzi. Abbiamo questa mattina deciso di prendere Claudio Gerini come al cuore, nel film Al cuore si comanda, come donna tipo della ascoltatrice media che vorremmo richiamare a esprimere il suo parere sull'uomo ideale. L'uomo ideale non è semplicemente la descrizione del principe azzurro, è per capire in quale modello concreto di mascolinità si appoggiano tutte le immagini, le allucinazioni, i desideri, le attese, le nostalgie che soprattutto in questo mese di aprile, crudelissimo, come sappiamo esattamente, come abbiamo più volte, più anni provato sulla nostra carne, si presenteranno immancabilmente giorno dopo giorno, pioggia dopo pioggia, e quando appunto il Lillà nascerà, come dice Eliot, dalla terra morta. Cos'è questo Lillà? Lalla, buongiorno. Lalla? Eccolo, sì. Io seguo spessissimo questa trasmissione perché mi piace, interessantissima. Oggi ho sentito dire che non ci sono donne che telefonano. Sì, è vero, ecco, è un dato di fatto. Io ho già una certa età e sinceramente non avrei voglia di chiamare, di mettermi in discussione, però le mie idee. Però l'hai fatto. Secondo me, posso dirlo? Sì. Un uomo, per essere un uomo, deve avere le tre C. Comincio a avere sudore freddo. Dimmi. Cuore, coglioni. Ah, ecco. Ecco, secondo me. In quale ordine, però? Scusami, in quale ordine? In ordine decrescente o in ordine. No, proprio così. Cervello, perché se non hai cervello, anche il cuore serve a poco. Ti colpisce con il cervello, quindi. E i coglioni bisogna averli al giorno d'oggi. Oddio, se ci stanno a qualcosa. 50% di bontà, 50% di cattiveria, ma non perché si vuole essere cattivi o si vuole essere buoni, per non essere dei pirla. Vediamo di concretizzarlo, però costruiamolo poco. Questo uomo, perché. Pronto? Sì, ti ascolti, sento bene. Ah, perché la sento poco. No, diciamo, costruiamolo questo uomo. Tu hai detto 3C, quindi prendiamo una silhouette vuota di un probabile uomo, gli mettiamo un cervello sopra, gli mettiamo un cuore e gli mettiamo sotto le palle. Poi, certo. Attorno a queste tre cose cosa costruisci? Ma intorno a queste tre cose si costruisce il mondo. Tutti gli uomini. No, non andiamo in teoria, andiamo. Scusa, le cose più semplici sono quelle. Sono descrizioni concrete e pratiche. Non metaforizzare. Concrete pratiche regge una famiglia, come può aver retto la mia, con tante difficoltà. Quindi anche le spalle ci vogliono. Diciamo, delle spalle robuste. Delle le spalle. Le difficoltà esistono, I momenti di debolezza per entrambi. Però se uno ha il cervello, il cuore, i coglioni, che poi dovrebbe averle anche la donna, diciamo che non avrà i coglioni, mettiamo le tette, vabbè, comunque non cambia molto. E le cose possono andare avanti. Quindi per te basterebbe, scusami, una sorta di fantasmatico, non sente nulla. Poverina, dei problemi. Mi senti, Lalla? Sì. Ah, ecco, no, perché. Ah, scusa, ma siccome ho un rimbombo dentro il telefono, non riesco a capire se è il mio telefono o cosa, ma. No, dicevo, diciamo, al di là di queste tre apparati che hai descritto, sì. Non vedi altro, vedi un essere trasparente in cui galleggiano tre elementi fisiologici, finisce lì. Questo volevo capire un po', se tu dovessi costruirlo quest'uomo, come lo costruiresti? Beh, io costruirei un uomo che sia un vero uomo, che non ci sia confusione sul ruolo femmina-maschio, cioè l'uomo deve essere uomo. Non mi piacerebbe un uomo che fa la donna, o come non mi piace la donna che fa il maschio. Cioè, una donna può essere importante, avere anche un ruolo importante e rimanere femmina, e l'uomo deve rimanere maschio. Penso che ci sia un po' di confusione sul ruolo oggigiorno. Vabbè, abbiamo capito, questo già mi sembra un punto fondamentale. Allora, l'uomo, oltre ad avere, diciamo, tutto al posto suo, deve avere un suo ruolo, un ruolo di uomo, un ruolo di fulcro in cui la donna si appoggia. Mariangela. Sì, buongiorno. Vediamo se riesce a essere un pochino più concreta. Sì, sono assolutamente d'accordo con la signora, fino a un certo punto. Io le porto la mia esperienza. Immagino, dalla voce della signora, penso che io ho 56 anni, quindi sono. Parliamo, ne aveva diciamo, 42 quella signora. Ok, vabbè, comunque, insomma, io parlo della fascia delle donne della mia età. Io sono concordo con la signora e avviso anch'io questo problema. Da qualche anno sono single, sono sola dopo un divorzio, però negli incontri e nelle serate avviso questa cosa, la difficoltà nella comunicare con questi uomini, che prima di tutto la prima cosa che ti fanno apparire è il fatto che loro siano ancora maschi da poter dare molto sesso, è la prima cosa che dico. Butta via, scusami, mi sembra. No, butta via, d'accordo, però di fatto per la donna non è la cosa importante, non è una cosa importante questa di dover assolutamente fare sesso. Beh, anche perché oggi non è mistero che gli uomini hanno dei presidi farmacologici che potrebbe fare sesso anche un cadavere, quindi non è proprio sì, quello. Ma secondo me questa è la loro ansia nel dover dimostrare a tutti i costi che sono in grado di soddisfare la donna. Lo so, però fa parte della nostra priorità. Non ce ne volere, ma fa un po' parte del nostro imprinting. Certamente. Ci sentiamo in dovere di lasciare tracce di soddisfazione. Lo dico con grande modestia, senza dovermi nascondere tutto il pudore. L'uomo un po' si sente impegnato di dover lasciare questo risultato, questa sorta di marchio nella donna che è piacevolmente attraversata dal suo passaggio, ecco, diciamo così. No, su questo sono assolutamente d'accordo, ma lo so, ma nei discorsi dei nasci uomo, capiterà anche a te di quando rinascerai uomo di avere questa sorta di incombenza che ti fa parte della tua natura, capito? No, certamente. Però io mi ricordo all'epoca di quando ero ragazza che gli uomini che io vedevo erano quelli più grandi, erano come quelli di mio padre, sicuramente avevano un altro appeal, insomma, rispetto agli uomini di oggi. In che senso? Ti piacevano di più? Si avvisa che soprattutto non sono informati, è difficoltoso fare un discorso anche di attualità. E quindi poi magari ci vedono più aggressivi. Io parlo sempre di mia fascia di donne della mia età. Che onestamente, scusami, mi sembra che la fascia ideale, perché in questo momento tu non devi più dimostrare niente, non devi nemmeno più nasconderti esatto. da nulla, non hai esatto. più bisogno di mostrare né virtù, né pudori, né riservatezze. Esatto. Se esci con un uomo è perché con quest'uomo vuoi star bene, sennò non esatto, ci avrebbe senso. Esatto, ma è molto difficile. Lo è so. Molto difficile perché l'argomentazione è di basso livello, quasi sempre. A tutti in tutti i ceti e ravviso questa ansia di dover far vedere assolutamente che loro sono così, che sono cosa, che hanno avuto un passato in questo modo, che hanno avuto tante donne. E è un'ansia che a noi porta disagio, perché poi alla fine non è quello che vuoi. Io vuoi un compagno col quale condividere le giornate, neanche costruire qualcosa di, perché ormai la tua vita l'hai costruita professionalmente. Esattamente. Infatti, e è la donna ideale, la donna che non ti chiede nulla per il futuro. Esatto, io sono in questa posizione e dovrei essere la donna ideale. Sono anche una donna ancora corteggiata, dimostro molti meno anni di quelli che ho, però ho c'è questa difficoltà enorme. Ho la mia professione. Ne prendo atto, io faccio questa missione proprio perché mi rendo conto che esiste questa difficoltà, quindi mi fa piacere quando qualcuno la porta in superficie. Grazie. Giovanna. Buongiorno. Eccola. Io devo dire che insomma è molto vero che l'uomo ideale debba essere un uomo maschio, un uomo forte che trasudi da un certo punto di vista una forte sensualità, una forte carica erotica. Io credo che quello che la signora precedentemente ha detto, il fatto che l'uomo debba dimostrare, no, di saper soddisfare la donna, sia una sorta di interpretazione che l'uomo ha fatto di questo nostro desiderio di un uomo forte, di un uomo maschio. L'uomo maschio non è solamente l'uomo che ti soddisfa dal punto di vista sessuale, anche, ovviamente, anche, certo. Ma è anche quell'uomo con il quale tu puoi parlare di qualsiasi cosa. L'uomo è brutto dire colto, però un uomo che sappia il fatto suo. Ecco. O perlomeno tu non ti senta inibita di parlare liberamente con lui. Esattamente, perché il rischio è proprio questo. Io ho 30 anni, sono appena diventata mamma e adesso sono assolutamente appagata di quello che è il mio compagno, però ragazzi, il momento della maternità è il momento in cui uno abbassa un attimo le pretese, poi dopo vedrai che ritornano. Sì, sì, no, assolutamente, ma lo ero anche prima. E ritorneranno di in maniera mamma. Molto fantasiosa. No, ma infatti, ma non siamo una coppia assolutamente fantasiosa da tutti i punti di vista, quindi siamo assolutamente appagati l'uno dall'altro. Vabbè, non voglio anticiparti il futuro, ma no, anzi, avrai sorprese. Meno male. D'altro canto, però, nelle precedenti esperienze di rapporti, di rapporti amorosi, ma anche di incontri puramente sessuali, insomma, l'uomo è banale. Fondamentalmente, spesso, e ce ne sono molto pochi di uomini interessanti con i quali poter trovarsi non solo fisicamente ma anche di testa. Beh, è chiaro, scusami, è normale che ci siano più persone banali che persone interessanti. Ovvio. L'interesse è dato dall'eccellenza. Se l'eccellenza fosse certo. omologata non sarebbe un dato di attenzione. Comunque interessante, Giovanna, quello che state dicendo. Finalmente le donne sono svegliate, ma avrete modo di esprimervi completamente, con pieno appagamento, tra un istante, dopo le informazioni del traffico. email melog@radio24.it. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Lo sapete che Emanuele è tornato adesso da un altro viaggio? E chi è Emanuele? Io. 2 settimane in Cappadocia. Ma il suo amico aveva una faccia da cazzo. Ma, segreto, ma guarda che deficiente. Roba da morti viventi. Allora per fortuna ci penso Paola a dare un taglio alla serata con una scusa. Vabbè, io mi sono rotta i coglioni. Che fai tu, Lorenza? Viale? Ma no, ti accompagno io. No, no, si è fatto tardi pure per me. Meglio che vado. Ciao Giovanni. Ma questa serata è andata in banca. Devo starmene in casa a stirare. Mi sa che Gaetano ci è rimasto male però, eh. Vabbè, ma lo spero, perché almeno la smette di stressarmi, sto sorcio. Ma quello che mi ha fatto piedino? Ma chi? Cosa? La merda? Adesso torno indietro e gli è meno. No, Paola, perché? Per carità. Una meravigliosa serata buttata via, quello per cui uno torna a casa, un'ansia, sbatte la testa sul muro con un rompiscatole bestiale che parla dei suoi viaggi in Cappadocia e l'altro fa piedino sotto il tavolo. Ricordo tempo fa mi raccontò un'amica che andò a una cena di amiche e a un certo punto vide una scarpa sotto il tavolo, non ci fece caso, poi sentì il piede calzinato del marito di una di queste signore sotto al tavolo che si insinuava tra le sue caviglie e se andò via colpita da questi due poli estremi, il pressapochismo familiare amichevole dei tanti rompiscato che chiacchieravano e facevano gli spiritosi e questo sorcio infame lubrico che si era tolto la scarpa e pensava con il suo calzino sudaticcio di vincere le ritrosie di questa ragazza, l'avrebbe anche potuto vincere ma non in quell'occasione, non con quel sistema, non con quella rozzaggine, con quella maniera per nulla complice. 800240024. Le donne questa mattina sull'incedere e l'iniziare del terrificante, terribilerrimo e sinuoso aprile raccontano come vorrebbero gli uomini. Marina, buongiorno. Buongiorno. Ha trovato che un uomo ideale? Esatto. Bene. Anche perché io penso che sia un problema di persone. Beh, certo, non è un problema di oggetti. Quando si ama una persona bisogna amarla totalmente, cioè nel senso i pregi che sono quelli visibili, ma anche i difetti. Perché ma possiamo evitare di usare questa parola amore così inflazionata? Qua parliamo di no, incontri. No, invece di... non è, secondo me è usata poco. Cioè, molte volte le persone parlano di amore in senso generale. Mm. Quando devono dire ti amo, non lo dicono mai, ma questo non solo nei rapporti fra uomo e donna, nei rapporti in genere. Sembra quasi che ci sia un pudore nel dire ti amo. Ma è bellissimo dirlo mentendo, penso. Dirlo quando un uomo è veramente vergognoso. Il problema, sai qual è? Che si vive poco col cuore. Si vive con tutte altre cose tranne che con il cuore. Ed è difficile vivere col cuore. Perché col cuore... Marina, scusa se sono crudele, ma prego. Mi medesimo aprile. Che vuol dire vivere col cuore? Una cazzata, scusami. Che vuol dire vivere col cuore? È una pompa che pompa il sangue. Portiamolo su piani più concreti. Vuol dire vivere col cuore? Vivere col cuore vuol dire vivere con gioia, vivere con serenità anche nei momenti difficili. Cioè cercare sempre di avere comunque... Io guardi, le dico questo. Io ho conosciuto questa persona, rappresenta tutto quello che prima voi stavate parlando. Quindi sei nella fase del culmine della passione, no Marina? Sei nella fase culminante della passione, in cui no, è una persona in testa. No, è più di un anno, quindi non è la fase culminante. Vabbè, ma può durare passione. Anche un anno una passione. Cioè, no, sei... no, la passione è una cosa che si alimenta, si modifica, ma esiste sempre. Se quando è una cosa di pelle, non si può spiegare a parole. Ho capito, ancora ti tira l'idea di quest'uomo quando lo incontri. Cosa. È così? Ancora diciamo, ti emoziona l'idea di incontrare quest'uomo, anche dopo un anno? Assolutamente sì. Oh, e qual è il problema? Ci si vede poco, ci si vede una volta al mese, quindi forse è per quello. Ma quello è il vantaggio, se lo vedi una però volta al mese sente, ogni volta... No, però ci si sente tutti i giorni, si parla di tutto. Ma lui naturalmente avrà un'altra donna, sarà sposatissimo, immagino. Diciamo di sì. Vabbè, diciamo, o sì o no. Sì, però, vabbè, non si può sempre classificare tutto nello stesso modo. Ma questo è uno stato diciamo civile. Non è libero, ecco. Diciamo vabbè, c'è un'altra donna, perfetto. Allora, vi vedete clandestinamente. La clandestinità dà sapore e umore al vostro incontro. Matematico. Non necessariamente, io non penso che sia quello. Io allora cos'è? Anche altre storie che sono qua devo rivedere, scusami molto. Marina, se lo trovassi davanti a casa con le valigie dicendo ho lasciato mia moglie, finalmente mi metterò a casa tua e ci ameremo per sempre, ti verrebbe il sudore freddo? No, assolutamente. Sì, ma lascia perdere, dai. Io sono una persona sincera. Va bene. Non allora ti faccio un grande auguro. Questo aprile, quest'uomo te lo trovi sotto casa con la valigia piena di pedalini da lavare e di mutande da smacchiare. E che ti dica, cara, tutta la vita starò problema, qui. Sai qual è il problema, come diceva prima con la signora? Sì. È che l'uomo deve fare l'uomo e la donna deve fare la donna. Il problema è che le donne sono tutte aggressive, anche nell'atteggiamento, non hanno più la femminilità, ma che non intendo. Ma non è vero, guarda, io sono invece anzi colpito da questo riaffiorare di femminilità in donne di tutte le età. Non trovo che sia giusto. Adesso sì, no, per fortuna, però volevo dire, fino a poco tempo fa c'era questa voglia comunque, per quello gli uomini Ma c'è stato un momento di follia in cui l'essere donna è stato politicizzato, la donna aveva bisogno di dimostrare che ha qualcos'altro oltre un modello di femminilità. Oggi non c'è più il pudore, è stata sdoganata, la parola femminilità non è più un insulto, non è un è caduto l'imperio delle cozze per forza devono far sentire complessate le donne che hanno voglia di essere donne. Grazie Marina. Ilaria. Buongiorno Nicoletti. Eccomi. Allora, due cose al volo, veloci. Uomo maschio, io ho 35 anni, non me ne frega proprio niente, cioè, sono delle tematiche proprio poco interessanti. Vabbè, una consolazione, questo ci fa piacere. Seconda, bella sensazione stare con il mio di uomo, tra la gente, amici, feste, passeggiare e non trovarmi in imbarazzo. In base a quello che dice, cioè perché non fa le puzze, queste cose qua? No, non sono queste cose. Magari trovarmi anche in dissenso, insomma, rispetto a quello che dice, non l'imbarazzo, oddio che sta dicendo questo, chi è. Vabbè, ti fa sentire a tuo agio, questo è giusto. Mi stimola, mi eccita, mi gratifica, insomma, ripeto, non per trovarmi con una sorta di partuse non portato alle estreme conseguenze, andare col suo uomo fra la gente e capito, vedere che lui eccelle. Che non fa figuraccia. Non è una nota stonata. Vabbè, questo mi sembra... Che sta lì e... Ma non perché è basico, e tu pensi questo qua è tutto mio, pensa che bello. A volte sì. Contento. Mi sembra che lui sia fortunato. Laura. Laura. Ah, pronto. Eccolo. Non avevo capito che tocca. No, io volevo fare un'osservazione invece di carattere temporale. Penso che quest'uomo che si è così criticato con questa mattinata è il frutto di un problema tempistico. Cioè, se ci si innamorasse, ci si sposasse molto prima, forse tutto questo tempo che dedichiamo al farci belli, ai nostri interessi, alle nostre vanità, non ci sarebbe. Forse nella coppia ci sarebbero altre cose prima. È una sorta di lobotomia alla passione, ci sposiamo presto così, come diceva appunto Sant'Agostino, ma ci si sposa e così non si arde, una cosa del genere, lo diceva a proposito delle vedove. Io credo che ci sia una grandissima passione anche nel matrimonio, io ho 28 anni, sì. Sto con mio marito da 8 e la nostra passione va a gonfie vele. Sì, però sì, verrà, cara, il tipo di uomo proprio di cui si sta parlando questa mattina, quello troppo bello, quello palestrato, quello così... E quelli l'abbiamo esclusi, no? Abbiamo già capito che non ce ne interessa nulla. Avevo sì, però, perso questo pezzo al telefono. Ilaria, mi dicevi? Avevo perso Abbiamo detto, no, perché sei interessante e ti voglio questa mattina scovare nei tuoi angoli che tieni nascosti. Tu dici, guarda, porti il solito quadretto della moglie felice appagata, se ci si sposasse presto non si avrebbero tante idee per la testa. Invece noi teniamo conto e siamo orgogliosi di dire che in realtà nella natura così complessa dell'essere umano c'è anche il lecito desiderio ad aprile di poter allucinare modelli di conoscenza, di incontro, di sensazione che non siano logicamente, necessariamente quelli lecitamente assegnataci dalle leggi umane e divine. Quindi tu dici, sono appagata con mio marito, mi sono sposata presto. Ma vuoi lasciarti degli spazi liberi nell'immaginazione da colmare? Se tu dovessi colmarli, con cosa li colmeresti? Ma probabilmente il tipo di uomo che desidererei io sicuramente è un uomo molto colto. Lo sgarbi delle prime ore, quello meno arrogante, quello con cui visitare un museo e restare a bocca aperta, ecco, quel tipo di uomo là. Che non è tuo marito in questo caso? No, assolutamente. Ecco, perfetto, vedi, anche tu. Esatto, contrario di mio marito. Esattamente. Cioè, mio marito è una persona molto pratica, molto però concreta. Vedi, Laura, scusa, non vorrei essere l'istigatore alla trasgressione. No, ma se dovessi evadere, certamente ecco, perfetto. Evaderei vedi, con il contrario. Vedi. Allora, lo spazio dell'evasione esiste anche in una persona giustamente, lecitamente, placidamente timorata come te, e quindi Aprile, nella sua crudeltà, ha piena possibilità di esprimersi. A lunedì. Alors tous deux, on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.